A bordo campo di Dario Ricci. Nanga Parbat, Pakistan, 8125 metri. La montagna mangia uomini. Beh, oggi a bordo campo saliamo di parecchio, sul livello del mare, perché raccontiamo una sfida, un'impresa, un tentativo, un dialogo con la natura, con la montagna. Tutto questo è infatti la spedizione che si accinge a fare proprio sul Nanga Parbat, uno dei tetti del mondo, delle cime più affascinanti e temute della terra, il nostro ospite di oggi, Daniele Nardi. Benvenuto, ben ritrovato a bordo campo. Grazie, grazie a tutti voi, e sono felice di essere di nuovo qui a parlarvi del Nanga Parbat e di questa nuova spedizione che mi coinvolge tantissimo. Eh sì, Daniele, alpinista estremo, amico di a bordo campo, perché io mi ricordo sei venuto qui nell'ottobre del 2010, allora l'obiettivo era il Karakorum, anche quella sfida importante, riuscita, e che ci avevi anticipato. Questa volta vieni a raccontarci quest'altra grande avventura, la sfida al Nanga Parbat, in un momento, in una stagione, in un periodo del tutto particolare, perché l'eccezionalità di questa sfida è proprio nel momento in cui tu scegli di farla. Si parte per affrontare uno dei grandi tetti del mondo nella stagione più dura, più difficile, l'inverno. E questa è proprio la particolarità di questa scalata, giusto così per spiegarla in due parole: nella storia dell'alpinismo gli 8000 sono 14, tutti e 14 scalati d'estate più di una volta. L'Everest ormai lo sappiamo, è stato scalato veramente tantissime volte in tanti stili, più puliti e magari meno, e invece nel periodo invernale, nella stagione invernale, quella più ostile, in realtà ci sono tre montagne ancora di queste 14 che non lo sono state nel periodo invernale. Cioè non esiste, nel termine tecnico dell'alpinismo, la prima invernale. Quello che vado a tentare proprio in questa occasione è proprio la prima invernale del Nanga Parbat, che per difficoltà, diciamo, ha respinto le 12 spedizioni precedenti a questa che sta per partire, che mi vedrà protagonista. Ecco, insomma, numeri che già ci danno l'idea di quello che vuol dire questa sfida. Altri numeri sono quelli delle temperature, per rendere esplicito ai nostri ascoltatori il senso e la dimensione di questa avventura. A che temperature ti muoverai? Ma io, per far capire esattamente che cosa significa la temperatura bassa lì in alta quota, faccio sempre riferimento al fatto che l'organismo umano, l'uomo, è una macchina che funziona ad ossigeno, non soltanto per vivere, per sopravvivere, per alimentarsi, ma anche per riscaldarsi. Cioè l'ossigeno ci serve anche per riscaldare le nostre membra. Allora che cosa accade? Che quando si sale su verso l'ipossia, verso gli 8000 metri, dove la pressione parziale dell'ossigeno diminuisce fino a diventare quasi un quarto di quella del livello zero, del livello del mare, accade che la temperatura bassissima, che si aggira fra i 30 e i 50 gradi sotto zero nel periodo invernale, vengono percepiti in maniera ancora maggiore, proprio perché l'organismo umano fa fatica ad autoriscaldarsi. Quindi l'insieme dell'abbassamento dell'ossigeno e queste temperature fortissime, violentissime, fanno sì che il Nanga Parbat diventi, in quel periodo più ostile, una delle montagne più difficili in assoluto del mondo da scalare. Tant'è vero che fino ad oggi ancora manca questa prima scalata. È ancora più eccezionale il fatto che l'impresa la tenti, come sentite dall'accento, non un altoatesino o un quasi tedesco, come siamo abituati, no? Spesso quando parliamo di alpinisti e scalatori estremi, ma un mio compaesano, mettiamolo, insomma, siamo quasi tutti e due romani, tu, io di Roma, della capitale, tu da Sezze. Io sud, da Sezze, in provincia di Latina, ma siamo veramente a due passi. Insomma, spiegaci un po' come mai da Latina ti ritrovi in cima all'Everest, al K2, al Broad Peak, al Nanga Parbat, che hai conosciuto d'estate. Insomma, come nasce questa passione? Beh, è una passione che nasce un po' conoscendo la natura dei luoghi, dei monti lepini, eccetera. Insomma, io dico sempre, la mia generazione precedente, quella dei miei nonni, erano pastori, e loro erano pastori, erano abituati alla vita di montagna, di stare sempre all'aperto. Poi c'è stata un'evoluzione, mio padre, diciamo, e mia madre, insomma, si sono laureate, hanno fatto una vita più cittadina, e io è un po' come ritornare alle origini in questo senso. Un po' selvaggio, ma tanto è vero che diciamo, la battuta che tu fai sugli altoatesini, i bolzanini, che io amo tantissimo, perché proprio negli ultimi anni sono entrato a far parte di questo team estremo dell'azienda, insomma, di Saleva, quindi la rappresento un po' in giro per il mondo, mi ha fatto sì di diventare anch'io un po' del luogo, no? Di frequentare le Dolomiti, tutta quella zona lì. E insomma è bello perché diciamo che sono quasi veramente culture a confronto ogni volta che vado su ad arrampicare con gli amici del team. Insomma, senti, a sfida vinta allora come festeggi? Carbonara o canederli? Cercherò di fare un misto, magari faccio una nuova ricetta a metà strada fra la carbonara e il canederlo. Beh, ecco, allora in quel caso non venire a bordo campo perché noi siamo puristi della carbonara. Senti, a parte scherzi e battutacce, cima che già hai conosciuto l'estate, no? Il Nanga Parbat, chiaramente con tutte le differenze del caso che cui accennavi. Dal punto di vista tecnico, percorso d'aspetti, che scalata d'aspetti, so che c'è anche una posizione particolare del campo base che rende ancor più impervia la via alla cima, perché stavolta rispetto agli altri 8000 il campo base è a una quota un po' più bassa e ti obbligherà inevitabilmente a fare un percorso ben più lungo per arrivare in cima. Ho studiato, vedo Dario, questa volta ti sei preparato per bene, altro che, cioè, Bordocampo è veramente in montagna oggi, diventa sempre più montanaro. Anzi, metto la sciarpa che qua comincia a tirare lo spiffero. Ma guarda, la prima cosa che farò, mi andrò a allenare al Colosseo, già programmato una arrampicata lì al centro di Roma sul Colosseo, per cercare di prepararmi all'impresa. Però no, senza scherzare, diciamo, il Nanga Parbat ha questa difficoltà, cioè generalmente i campi base delle montagne di 8000 metri si aggirano fra i 5000 e i 5500 metri. Se sottraiamo la vetta intorno agli 8000 con la quota del campo base, vediamo che abbiamo una parete che varia fra i 2500 e i 3000 metri. Nanga Parbat ha questa particolarità: il campo base è molto basso, si trova a circa 4200 metri, per cui rispetto alla vetta abbiamo un dislivello di 4000. Allora io non voglio, diciamo, forzare in questo senso anche la comunicazione, non dico che sono 4000 metri di parete, non è così, a volte ci si gioca un po' su questi dati. C'è una fase di avvicinamento che ci permette di mangiare in qualche modo del dislivello, quindi in realtà non sono proprio 4000, ma comunque dei numeri molto elevati, perché ci aggiriamo su una parete di circa 3500 metri. Questi 3500 metri ho deciso di salirli attraverso una via che è la via Kinshofer. Non è la via della prima scalata, è un po' più impegnativa, però ecco, ritengo che sia la via che voglio seguire per un po', perché la conosco molto bene, perché ci sono stato nel 2008, e d'altro canto perché ritengo che possa essere una buona linea di salita in quel periodo invernale. Qualora questa non riuscisse, però ho un piano B. Qual è? Quale sarebbe? Questo è un piccolo sogno, bisognerà vedere molto le condizioni meteorologiche, la neve, perché la prima parte è molto soggetta a valanghe, comunque a neve che si accumula, quindi insomma la situazione è un po' difficile. Però mi piacerebbe molto provare a vedere la linea diretta che Reinhold Messner e Gunther Messner utilizzarono purtroppo in quella tragica spedizione di discesa dal Nanga Parbat tanti anni or sono. Che costò purtroppo la vita a Gunther Messner. La storia Nanga Parbat è la storia dell'alpinismo. Questa è una montagna pazzesca dove veramente la storia che la percorre incute timore. C'è una montagna che merita un grande rispetto. Infatti non vorrei far pensare, insomma, che vado lì a cuor sereno, oppure così. Ho un po' di timore, diciamo, un timore riverenziale nei confronti della montagna, anche se in effetti io l'ho già scalata, e in quel periodo, considerando anche i venti molto, molto forti, molto freddi, diciamo ci vado veramente con i piedi per terra. Però ecco, d'altro canto sono molto motivato, sono anche molto allenato, sto continuando con gli allenamenti, anche un mental training, quindi mi sento veramente molto convinto di poter dare il meglio in quella circostanza. Ecco, ora fra poco affronteremo proprio questi aspetti che sono molto interessanti e curiosi, però tornando e sviluppando questo concetto del senso del limite, credo che sia parte della sfida estrema, no? Nel rapporto con la montagna, avere la percezione di ciò che si può fare e di ciò che non si può fare. Spesso la vittoria è anche saper rinunciare a un tentativo estremo o a un passo in più, semplicemente, vero? Voi che lo vivete a ogni passo questo senso del limite. Sì, il limite, io dico che nella mia vita alpinistica, nella mia vita in generale, l'esplorazione, l'avventura, quella scintilla proprio di conoscenza, di gioia che c'è nel scoprire cose nuove o anche come noi reagiamo a certe cose è bellissima. Io l'ho fatto all'inizio della mia carriera con gli 8000, volevo capire che cosa si provava a respirare a 8000 metri, a essere lì su in alto fino alla vetta dell'Everest o del K2. Poi a un certo punto mi sono spostato di più su montagne dove l'esplorazione era su pareti inviolate mai scalate e ho fatto anche questo. Oggi quello che voglio provare e vedere è provare a spingere il mio limite più in là rispetto a queste spedizioni invernali dove le condizioni sono veramente ostili. Che cosa significa? Significa però imparare molto bene dov'è il proprio limite in quel momento storico, cioè riuscire a capirlo, a magari valicarlo un pochettino, ma quel tanto che basta per poter tornare a casa. Non sono, diciamo, qui ci sono due alpinismi un po' diversi, no? Non parliamo dell'alpinismo commerciale, parliamo dell'alpinismo da professionisti che mi riguarda, dove si cerca sempre di valutare attentamente i rischi che si vanno a correre e quali sono magari i comportamenti che possono abbassarli il più possibile. Parliamo di un'attività estrema, parliamo di uno sport estremo e quindi sappiamo che i rischi comunque sono altissimi e dobbiamo fare molta attenzione. La preparazione in quel senso è fondamentale per superare i limiti, ma anche per farlo nel modo più opportuno. Ospite davvero d'eccezione oggi qui a Bordo Campo, perché ci stiamo avvicinando alla cima del Nanga Parbat, la montagna mangia uomini. 8125 metri è quello l'obiettivo di Daniele Nardi, che oggi è il nostro ospite, che partirà verso questa cima per scalarla per la prima volta d'inverno il 21 dicembre. Allora Daniele, tante le difficoltà ricordavamo di questa scalata, ma tanto anche l'allenamento per affrontarle. Ecco, come ci si prepara dal punto di vista fisico? Partiamo da qui per affrontare una sfida così estrema. Bene, io dico sempre che ci sono due aspetti dell'allenamento fisico che vanno messi in evidenza. Da una parte c'è proprio quello generale, no? Legato alla endurance, cioè la capacità di resistere alla fatica e di andare, diciamo, per più giorni in allenamento e in fatica. Questo perché? Perché insomma c'è tutto il concetto di acclimatazione su una montagna di 8000 metri, bisogna abituare il corpo, e dopo però la scalata non dura un giorno, dura 3, 4, 5 giorni, dipenderà da poi la strategia specifica che potrò decidere solo vedendo le condizioni meteorologiche del momento. Per cui una parte è quella endurance, che si fa tranquillamente di corsa, corsa in montagna, corsa in piano, più chilometri con degli allenamenti precisi, e poi invece c'è l'aspetto tecnico che riguarda, nel caso del Nanga Parbat, un allenamento sulla scalata, particolarmente su ghiaccio, perché la maggior parte della scalata sarà fatta soprattutto su neve e ghiaccio. C'è solo un tratto della parete Kinshofer, che è la parte più verticale su roccia, ma saranno un centinaio di metri, ma lì mi sento tranquillo, insomma, perché insomma non sono altissime difficoltà, sono difficoltà che sono, legandole all'alta quota, fanno la difficoltà, ma qui sulle Alpi le farei tranquillamente. Quindi il problema più grosso sarà creare una buona endurance di base che mi permetterà di resistere sia al freddo che alla fatica i giorni della scalata. Ghiaccio protagonista di questa sfida, ovviamente ghiaccio anche protagonista della preparazione, no? Accennavi al fatto che ti stai avvalendo di alcune tecniche particolari, sì, che ti rendono anche simile ai rugbisti, no? Io in mente la crioterapia, credo si chiami, ti spiegaci un po' meglio. Ma in realtà mi fa piacere ringraziare, diciamo, il centro preparatorio olimpico di Formia, che mi hanno un po' preso sotto la loro ala protettrice, nel senso che ho praticamente il centro a disposizione, e la cosa bella è che all'interno di questo centro pazzesco, dove si allenano i più forti atleti della FIDAL italiana, c'è una vasca del ghiaccio. E allora, nella storia di bambino, quando io leggevo che Messner si immergeva in queste vasche dove buttava il ghiaccio del frigorifero, insomma, per abituarsi alle temperature più basse, eccetera, quando ho visto la vasca del ghiaccio, ho cominciato a parlare con gli amici lì e ho detto: sentite, ma perché non facciamo delle prove? E quindi, sia per defaticamento, quindi l'utilizzo normale, ma cerco di fare anche un allenamento un po' all'ipotermia, cioè cercare di portarmi a dei livelli ipotermici chiaramente accettabili nella vasca, immergendomi proprio fino all'ultimo capello, e proprio per capire poi come reagisce il mio organismo, quindi come riesco poi a ricominciare a muovermi. Ma la sensazione è veramente pazzesca, proprio a un certo punto si perde proprio la mobilità degli arti, la capacità di esprimere la forza, e questo provarlo in un ambiente chiaramente protetto, perché c'è chi mi assiste, mi aiuta a capire come fare per poi evitare magari in situazioni difficili di rimanere bloccati e non sapere proprio sul momento come reagire. Eh sì, importante anche l'aspetto emotivo, no? Quando uno si trova in quella situazione estrema, saperlo gestire con la testa per guadagnare quei decimi di secondo, quelle frazioni di secondo per far la scelta giusta senza anche farsi prendere dal panico. Aspetto emotivo, aspetto mentale, quindi dicevi, ci ricordavi, ci sottolineavi quanto questo aspetto sia importante e quanto anche questo vada allenato. So che hai un mental coach, come lavorate in squadra? Beh, hai toccato un punto veramente importante, nel senso che proprio la capacità di reagire a questi stati che è importante, non farsi prendere dal panico. Cioè, no, almeno io parlo per me, io come alpinista non sono un superuomo o un robot, insomma, io anche ho le mie paure, ho le mie indecisioni. Cioè, pensare che in fondo vado sul Nanga Parbat in invernale, cioè, mi crea comunque sì un po' di eccitazione, allo stesso tempo diciamo un timore legato al fatto che sto andando a provare qualcosa di importante. Per cui ho ritenuto che, oltre a questi allenamenti più tecnici e fisici, ho cercato di mettermi in comunione con un mental coaching che mi permettesse di sviluppare quelle capacità e attitudini per performare sempre meglio. E ho trovato in questo amico, ormai è diventato un amico, infatti a volte quando facciamo queste sessioni di coaching mi viene un po' da ridere con lui, perché l'amicizia a volte non è sempre d'aiuto, e lui è un professore dell'Università dell'Aquila, è Giuliano Caggiano, che lavora in Dita Network, insomma, con cui stiamo collaborando ultimamente, e quando facciamo queste sedute lui mi aiuta, diciamo, un po' a rimuovere, no, queste zone di indecisione, di paura, mi aiuta a focalizzarmi meglio sull'obiettivo, ecco, cercando per esempio, però di non superare mai il limite più di quello che è necessario. Ecco, un esercizio che fate, ad esempio, per se si può dire, insomma. Beh, uno degli esercizi che facciamo è legato proprio ad una miscela fra la respirazione e poi però attraverso delle domande guidate, proprio di coaching proprio puro che lui mi fa, mi aiuta proprio a tirar fuori delle sensazioni, delle emozioni, delle idee, a riordinarle, a rimetterle a posto. E poi oltre a questo facciamo anche degli esercizi invece proprio di programmazione e pianificazione che non sono legati proprio tanto al discorso di coaching, ma al fatto di riuscire proprio a capire come prepararsi alla spedizione, come affrontare la pianificazione durante la spedizione affinché poi tutte le cose, essendo più chiare, non creino, diciamo, delle situazioni di stallo o comunque di paura, di panico legato al fatto che magari non ci si è preparati in anticipo proprio sulla spedizione. Il mix delle due cose, una che è un po' più, diciamo, io la chiamo irrazionale, no? Un po' più passionale, perché poi lui man mano che va avanti nella conoscenza della montagna riesce pure a prendere degli aspetti un po' ludici, divertenti della questione, all'altra invece che è proprio tecnica di programmazione e pianificazione, che loro, diciamo, lui è veramente molto esperta, insomma, ho grande stima sia di lui che poi dell'altra prof, che è Alessandra Della Pelle, che saluto, ciao Ale, che sono bravissimi, mi stanno dando veramente un supporto veramente grande per questa spedizione. C'è anche un progetto umanitario, no? Che tu hai voluto legare a questa spedizione, perché tu sei anche ambasciatore dei diritti umani nel mondo e quindi, insomma, la responsabilità pesa forse più dello zaino che ti accompagnerà in questa grande sfida. Ecco, qual è l'obiettivo, qual è il progetto a cui stai lavorando quest'anno? Beh, il progetto, diciamo, in qualche modo è un proseguito di ciò che abbiamo fatto nel 2007 al K2, cioè cercare di andare a dare un pizzico di sollievo a tutti i bambini che vivono in quelle zone, portando delle cose semplici tra medicinali e quant'altro. Nel 2007 addirittura arrivò un'infermiera, una nostra socia, che andò lì a prestare proprio l'opera di volontariato. Quest'anno, diciamo, il progetto si allarga, cioè continua e diventa un pochettino più grande. Però ecco, il mio sogno è quello di dare una speranza in più ad alcune donne pakistane che ho conosciuto in questi anni, che vorrebbero provare a cominciare a scalare. Ecco, ti dico questo. Quindi questo progetto molto ambizioso che sto cercando di costruire con molta delicatezza e molta accortezza, perché sappiamo, insomma, che non è facile. Però ecco, io dico questo, no? L'alpinismo è in fondo la conquista dell'inutile. Cioè Lionel Terray, quando lo diceva, no? Diceva alpinisti, ma che cosa andate a fare a scalare le montagne? Cioè, beh, ma perché andate lì su, no? Poi lui ci andava ugualmente e ha fatto delle cose pazzesche, però quindi non c'è in realtà un motivo vero se non che quello dell'esplorazione, e molto spesso l'esplorazione, soprattutto sulle montagne di 8000 metri, è finita, no? Voglio dire, l'abbiamo scoperto. Allora dice, qual è il valore morale ed etico di scalare queste montagne? E io mi sono dato delle risposte. Da una parte, diciamo, diventiamo un pochettino più sport, cioè partecipiamo a quello che è far conoscere, no? Intrattenere le persone, quindi la televisione, la radio oppure i nostri YouTube servono per far conoscere le persone e intrattenerle. Dall'altra parte però c'è qualcosa di etico che io ho cercato di costruire, uno sui progetti solidali e dall'altra parte con la bandiera dei diritti umani. Cioè pensate che 8.000 ragazzi incontrati un po' direttamente, un po' indirettamente attraverso l'associazione Arte e Cultura che diciamo porta avanti questo Youth for Human Rights, che è questa campagna per i diritti umani, questa bandiera è stata firmata da 8.000 ragazzi che hanno detto: noi prendiamo l'adesione a divulgare i diritti umani perché questo sarà anche energia per Daniele, che porterà la bandiera dei diritti umani sulla vetta del Nanga Parbat in invernale affinché possa prendere luce e abbia un senso. Per me questa è una cosa importante, la sento veramente come una grande responsabilità e sento questi ragazzi, questi 8.000 ragazzi veramente che sono una sorta di spinta per cercare di raggiungere questi obiettivi. Beh, insomma, avete capito in questa lunga chiacchierata perché Daniele Nardi è un alpinista estremo, uno scalatore estremo davvero eccezionale, davvero particolare, non solo perché viene da Sezze, non da Bolzano. Daniele, veramente siamo felici che tu possa avere, oltre a questa spinta di questi 8.000 ragazzi, anche quella degli ascoltatori di A Bordo Campo e di Radio 24 verso questa cima, verso questa sfida. Chiaramente ti aspettiamo qua al ritorno, perché la bandiera la porti su, però poi la porti pure qui in studio. Sicuramente poi me la devi firmare la bandiera, voglio assolutamente la tua firma. Però salza l'età media poi, di firmatari, ci metto la firma mia. Se sei disposto, volentieri. Io vi ringrazio sempre Bordo Campo, perché è anche un'occasione di parlare di montagna, insomma far conoscere questo ambiente bellissimo. Insomma l'Italia è bella anche per la montagna, non soltanto per il mare. Abbiamo delle montagne bellissime, insomma parlarne qui è sempre un piacere, veramente un piacere. Grazie a Daniele Nardi, siamo nel tuo zaino sul Nanga Parbat. Grazie a te Dario. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Matteo Comes in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla nostra mail abordocampo@radio24.it, dialogare con noi anche attraverso il nostro blog, sempre sulla nostra pagina web, e riascoltarci attraverso il nostro sito www.radio24.it. L'appuntamento come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.